Quando Tom fu rientrato nella povera stanza e il suo padrone ebbe voltato il cavallo, uno di quei lampi da cui è talvolta rischiarata anche l'anima più malvagia attraversò la coscienza di Legree. Egli comprese che Dio si frapponeva tra lui e la sua vittima e bestemmiò. Questo povero nero, umile e paziente, che non le ingiurie, non le minacce, non le percosse, non le più orribili crudeltà commuovevano, svegliò nell'anima del suo tiranno una voce, la quale diceva, simile a quella dei demoni scongiurati dal divino maestro, che cosa c'è fra te e noi, Gesù Nazareno? Sei tu venuto a tormentarci prima del tempo? L'anima di Tom riboccava di amore e di compassione per le infelici creature che lo circondavano. A lui pareva che i dolori della sua vita fossero ormai terminati e un vivo desiderio l'accendeva di versare dall'anima sua, per sollievo delle loro pene, una parte di quello straordinario tesoro di pace e di gioia largitegli dal ciclo. Invero le opportunità erano scarse, pure nell'andare ai campi o nel ritornarne o durante il lavoro, qualche occasione gli si offriva di stendere una mano benefica agli stanchi, agli avviliti, agli sfiduciati. In sul primo, quelle misere creature, logorate e abbrutite dalle privazioni e dai cattivi trattamenti, non lo comprendevano, ma egli non si perdette d'animo e, continuando per settimane e per mesi l'opera sua di pietà, gli riuscì finalmente di far vibrare in quei cuori agghiacciati corde fino allora silenziose. A poco e quasi impercettibilmente, quell'uomo strano, taciturno e paziente, pronto ogni ora a caricarsi del fardello degli altri e che a nessuno chiedeva soccorso, che quando si dispensavano i viveri giungeva all'ultimo e prendeva la porzione più scarsa, ma era sempre il primo a dividerla con chi ne aveva bisogno. L'uomo che nelle rigide notti cedeva la sua coperta lacera a una povera donna che tremava di febbre. L'uomo che ai campi ricolmava il canestro del debole col tremendo rischio di vedere il suo mancante di peso e che quantunque perseguitato senza posa dal loro tiranno comune mai prendeva alcuna parte alle maledizioni e alle invettive degli altri. Quell'uomo acquistò alla fine su tutti costoro un potere meraviglioso. Passata che fu la stagione dei lavori urgenti e quando gli schiavi poterono disporre del loro giorno festivo, molti di essi si raccoglievano intorno a Tom per udirlo parlare di Gesù e si sarebbero radunati anche per cantare e pregare insieme, ma Legree non lo avrebbe permesso. E più di una volta disperse le innocenti loro radunanze proferendo bestemmie e ingiurie brutali, di modo che la buona novella evangelica non poteva più annunziarsi che a voce bassa, dal cuore all'orecchio, da persona a persona. E non di meno, chi mai giungerebbe a descrivere con qual pura e commovente allegrezza quei poveri schiavi, per i quali la vita non era altro che un triste viaggio verso un paese di tenebre e di mistero, udissero parlare d'un Redentore misericordioso e di una patria celeste. La mulatta, la cui semplice fede era stata quasi oppressa e schiacciata sotto la valanga di crudeltà e di ingiurie patite, sentì la sua anima risollevarsi all'udire gli inni e i passi della Sacra Scrittura che le mormorava all'orecchio quell'umile apostolo mentre andavano insieme ai campi o tornavano dal lavoro. Perfino il cuore sconvolto e traviato di Cassie trovava allettamento e riposo nella semplice e mite influenza di lui. Ridotta alla disperazione dalle crudeli torture della sua vita, Cassie aveva concepito un fiero disegno, fissato in sé un'ora di retribuzione in cui con le proprie sue mani vendicherebbe nel suo tiranno tutte le iniquità e le barbarie da lei patite o vedute patire. Una notte, quando tutti dormivano nella capanna di Tom, egli fu svegliato a un tratto e vide con sorpresa il volto di Cassie che si affacciava al pertugio che teneva luogo di finestra. Ella gli accennò tacitamente di uscire. Tom uscì dalla sua povera stanza. Era tra le 2 e le 3 dopo mezzanotte. La luna risplendeva chiarissima. Tutto era calma e silenzio d'intorno. Tom vide i grandi occhi neri di Cassie brillare di una fiamma sinistra ben diversa dal solito. «Venite, zio Tom», ella gli disse, mettendogli la sua piccola mano sul braccio e traendolo con tal forza come se quella mano fosse stata d'acciaio. «Venite qua, ho da darvi una notizia». «Che c'è, Miss Cassie?» domandò Tom ansiosamente. «Tom, bramereste d'acquistare la vostra libertà?» «L'avrò quando piacerà a Dio». «Sì, ma potreste ottenerla stanotte medesima». esclamò la donna con impeto. Venite con me. Tom non sapeva che fare. Venite, continuò ella a voce bassa, fissando gli occhi su lui. Seguitemi. Egli dorme profondamente. Io ho infuso tanto oppio nella sua acquavite perché dorma a lungo. Oh, se ne avessi avuto di più ora, non avrei bisogno di voi. Ma venite, la porta di dietro è schiusa e là vi è un'ascia, ve l'ho posta io. La sua camera è aperta, ve ne insegnerò io il cammino. Avrei fatto io stessa il colpo, ma il mio braccio non è forte abbastanza. Venite dunque. No, per tutti i regni della terra, rispose Tom con fermezza, indietreggiando nonostante tutti gli sforzi di Cassie per tenerlo. Ma abbiate pietà di tutte queste povere creature, soggiunse la donna. Noi potremmo rendere a tutti la libertà, rifugiarci nelle paludi, trovare qualche isola, vivervi indipendenti. Già altri lo fecero, sentii dire. Qualunque vita riuscirebbe meno trista di quella che meniamo qui. No, disse Tom, no, la colpa non produce mai alcun bene. Mi taglierei prima la mano destra. Ebbene, lo farò io, disse Cassie voltando le spalle. Miss Cassie, implorò Tom gettandosi innanzi a lei, per amore di quel Dio che è morto per noi, no, non vogliate vender così la vostra anima al demonio, non può venirne che male. Il Signore non ci chiamò alla vendetta, dobbiamo soffrire aspettando che egli ci liberi. Aspettare! Esclamò Cassie. Non ho aspettato. La mia testa non è tutta turbata, il mio cuore non è tutto ammalato per aspettare e aspettare. Quali tormenti non fa soffrire costui a centinaia di povere creature? Forse non si abbevera del vostro sangue? Oh, io sono eletta a vendicare voi e tutti questi infelici. È venuta l'ora sua e io avrò il sangue del suo cuore. Ah, no, no, disse Tom prendendola per le mani che la stringeva con violenza spasmodica. No, povera anima traviata. Il nostro dolce e benedetto Salvatore non versò mai se non il sangue proprio. E lo versò per noi, che gli eravamo nemici. Deh, Signore, fa che seguiamo le tue tracce e amiamo i nostri nemici. Amare! Esclamò la donna con un truce sguardo. Amare tali nemici è contro natura. Sì, è vero, riprese Tom, guardando in alto. Ma egli ce ne dà la forza e questa è la vittoria. Quando noi possiamo amare e pregare per tutti, la battaglia è finita e la vittoria è nostra. Ne sia gloria al Signore. Così dicendo, con voce commossa, fissava al cielo i suoi occhi lacrimosi. Il gran fervore dei sentimenti di Tom, la dolcezza della sua voce, le sue lacrime, caddero come una rugiada ristoratrice sull'animo sconvolto della povera donna. La calma successe al fuoco tetro dei suoi occhi, ella abbassò lo sguardo e Tom poté sentire che si erano allentati i muscoli della mano di lei quando ella diceva: Non vi ho già detto che lo spirito del male mi perseguita? Oh, zio Tom, non posso pregare, eppur vorrei potere. Non pregai più dal giorno in cui i miei figli furono venduti. Ciò che dite è giusto, ma quando io mi provo a pregare non posso fare altro che odiare e maledire. Non posso pregare. Oh, infelice, esclamò Tom. Il demonio vuole impadronirsi di voi e vagliarvi come il frumento. Io prego per voi, signora. Rivolgetevi al nostro buon Dio. Egli consola le anime straziate e solleva tutti quelli che soffrono. Cassie rimase in silenzio, mentre grosse lacrime le cadevano dagli occhi abbassati. Signora, soggiunse Tom, titubando un poco e dopo averla fissata in volto per qualche istante, se poteste solamente uscire di qua. Se fosse una cosa possibile, io vi aiuterei a fuggire, voi ed Emmelina, ma senza spargere stila di sangue, altrimenti no. Verreste con noi, zio Tom? No, rispose Tom. Vi fu un tempo in cui l'avrei desiderato, ma il Signore mi ha dato una missione qui, fra queste povere anime, colui che salvò Daniele nella fossa dei leoni e che serbò illesi fanciulli nella fornace, colui che camminò sul mare e comandò ai venti di quietarsi, è vivo sempre. E io ho fede che vi libererà. Tentate, io pregherò per voi con tutte le mie forze. Per quale strana facoltà della nostra mente avviene che un'idea lungamente ruminata e poi messa sotto i piedi come un oggetto di nessun valore brilli improvvisamente di una nuova luce come un diamante per chi di subito lo scopra? Che si aveva spesso consumato ore ed ore a immaginar progetti di fuga, e li aveva sempre posti da un lato come impraticabili, ma in quell'istante le balenò attraverso la mente il disegno più semplice, più agevole ad effettuarsi in ogni sua parte, e le si ridestò la speranza molto viva. «Tenterò, zio Tom», esclamò a un tratto la donna. «Così sia», disse Tom. «Iddio vi aiuti». 39. Lo stratagemma. La soffitta della casa occupata dalle Gray era, come molte altre soffitte, un vasto locale polveroso, tappezzato di ragnatele, ingombro di casse e di vecchie suppellettili. La ricca famiglia che aveva abitato quella casa nei tempi del suo splendore vi aveva trasportato molti arredi di lusso, una parte dei quali ne era stata ritolta alla partenza dei proprietari, e parte ammuffivano entro stanze deserte o in soffitta. Due o tre casse enormi nelle quali erano state trasportate le suppellettili di casa cui abbiamo accennato si vedevano ritte contro il muro. Uno stretto abbaino lasciava penetrare attraverso i sudici vetri una pallida e incerta luce sopra antichi seggioloni di alta spalliera, su tavole coperte di polvere che avevano visto giorni migliori. In complesso, era un luogo che pareva concio alle stregonerie, né mancavano leggende fra i neri superstiziosi per aumentarne i terrori. Alcuni anni prima, una nera che aveva in corso la disgrazia di Legree vi era stata rinchiusa per parecchie settimane. Ciò che lì accadde noi non lo diciamo. I neri ne parlavano fra loro sommessamente, ma ognuno era consapevole che un giorno il cadavere dell'infelice fu portato via di là e sepolto. Correva voce che da allora in poi colpi violenti, imprecazioni, urli, misti a gemiti e grida disperate risuonassero in quel luogo. Pervenute una volta per caso tali dicerie all'orecchio di Legree, egli montò in gran collera e giurò che il primo a ripeterle avrebbe occasione di saperne qualche cosa di più, perché ve lo rinchiuderebbe per una settimana. Questo avvertimento bastò a imporre silenzio, ma non tolse affatto il credito alle strane cose che si spacciavano. A poco, tutti i famigli presero l'abitudine di evitare la scala a chiocciola della soffitta e anche il corridoio che metteva a quella scala. E siccome, inoltre, tutti evitavano di farne parola, la leggenda, col trascorrere dei mesi, cadde in dimenticanza. Era balenata di repente a Cassie l'idea di approfittare della superstizione che era così potente nell'animo di Legree per riuscire alla propria liberazione e a quella della sua compagna di patimenti. La sua stanza era appunto sotto la soffitta. Un giorno, senza parlarne alle Gray, ella fece trasportare con ostentazione e grande strepito tutti i mobili dalla sua camera in un'altra che era a non breve distanza. Gli sguatteri che ella aveva chiamati a fare quello sgombero correvano e si affaccendavano con grande zelo e subbuglio quando le Gray tornò da una cavalcata. «Olà, Cassie, che vento spira oggi?» «Nulla. Solamente voglio avere un'altra camera», rispose Cassie burberamente. «E perché di grazia?» «Perché mi aggrada così». «Ah, al diavolo le pazze! Ma se ne può sapere la cagione? Bramo poter qualche volta dormire». «Oh, che cosa te lo impedisce?» «Non occorre che ve lo dica», rispose con brusco accento la donna. «Voglio saperlo, invece», urlò Legree. «Cose da nulla a voi non darebbero fastidio. Odo lunghi gemiti, colpi e un rotolar di non so che sul pavimento della soffitta da mezzanotte fino a giorno». «Gente nella soffitta?» fece Legree con un certo qual turbamento, ma sforzandosi a ridere. «E chi sono ch'essi?» La donna alzò i vivi suoi occhi e li fissò in quelli di Legree con un'espressione che lo fece rabbrividire. Poi soggiunse: «Davvero, Simone? Chi mai sarà? Mi fareste gran piacere a dirmelo, credo che voi lo sappiate». Legree, bestemmiando, fece l'atto di assestarle una frustata e la balzò da una parte, corse all'uscio, indi volgendosi dal limitare, gli disse: «Dormite un po' in quella camera e saprete come va la faccenda, seguite il mio consiglio». E detto ciò, serrò subito l'uscio a chiave. Legree, imprecando e strepitando, minacciava di sfondare l'uscio, ma pensandoci meglio se ne andò con aria inquieta nel salotto. Cassie comprese che il colpo era riuscito e da quell'ora non ristette dal lavorare con infinita destrezza per compiere l'opera incominciata. Nelle fenditure del tetto, ella aveva piantato diversi colli di vecchie bottiglie in modo che al più leggero soffiare del vento ne usciva un gemito doloroso e lugubre. E quando il vento rinforzava, cotesto gemere diveniva un grido acuto che ad orecchie credule e superstiziose poteva sembrare un urlo di dolore e di disperazione. Tali suoni erano stati uditi di quando in quando dai servi e ravvivavano pienamente la vecchia leggenda degli spiriti. Un terrore superstizioso si spandeva per tutta la casa e benché nessuno ardisse fiatarne dinanzi alle gre, egli se ne trovava circondato come da un'atmosfera. L'ateo è superstizioso, il cristiano confida in un padre sapientissimo e onnipotente, la cui presenza diffonde negli ignoti spazi la luce e l'ordine, ma per l'uomo che nega l'esistenza di un divino, il mondo invisibile è veramente, secondo l'espressione del poeta ebreo, regione di oscurità, tenebre e di morte. Senza ordine, senza luce, per lui la vita e la morte sono deserti, pieni di fantasmi e di larve. Le relazioni di Legree con Tom avevano un momento destato la sua coscienza, ma egli ne aveva ben presto soffocato la voce. Tuttavia provava una commozione, un'agitazione nuova ogni volta che udiva una parola di fede e di amore, una preghiera, un inno. Ma quel turbamento degenerava in superstizioso terrore. Cassie aveva su lui una strana e molto singolare influenza. 2 sere dopo il tramutamento di camera, Legree stava seduto nella vecchia sala presso un fuoco di legna che mandava un'incerta luce dintorno. Era una fosca e ventosa notte, una di quelle notti che sogliono destare gran varietà di suoni indicibili nelle vecchie abitazioni screpolate. Tremavano le finestre, le imposte sbattevano contro i muri, il vento gemeva, soffiava, si introduceva nei camini, gettando ogni poco per le stanze buffi di cenere e di fumo, come se spingesse davanti a sé una legione di spiriti. Legree aveva passato alcune ore ad assestare i suoi conti e a leggere le gazzette, mentre Cassie, seduta in un angolo, teneva fisso lo sguardo malinconico nel fuoco. Legree gettò via il giornale. Prese sulla tavola un vecchio libro che Cassie aveva letto in parte la sera e si diede a scorrerlo attentamente. Era una raccolta di narrazioni di atroci delitti, di leggende fantastiche, di apparizioni soprannaturali che, ornata e spiegata con incisioni, esercitava un prestigio strano su chi la leggeva. Legree borbottava con disprezzo, ma pur leggeva, voltando le pagine, finché, dopo aver letto un poco, gettò il libro a terra con una bestemmia. Tu non credi agli spiriti, non è vero, Cassie? Disse egli, prendendo le molle per aggiustare il fuoco. Io pensavo che tu avessi bastante giudizio per non lasciarti spaventare da rumori di questa sorta. Che vi importa di ciò che io credo? Riprese Cassie con asprezza. Sul mare i miei compagni volevano atterrirmi coi loro racconti, ma non poterono mai darmela ad intendere. Io sono di corteccia troppo dura per lasciarmi intaccare da simili fandonie. Cassie, seduta nell'ombra, guardava fisso Legree. I suoi occhi scintillavano di quella strana luce che sempre faceva in Legree un'incresciosa impressione. I rumori che sentisti, disse egli, non erano altro che i topi e il vento. I topi possono fare un rumore diabolico. Io li sentii più volte nella stiva del vascello e il vento, ah, c'è ogni varietà di suoni nel vento. Cassie sapeva bene che il suo sguardo conturbava Legree, perciò non rispose e stette ferma a guardarlo con quella sua strana e quasi soprannaturale espressione. «Ah, via, parla, donna! Non sei dello stesso parere?» domandò Legree. «Possono i topi scendere le scale, attraversare il vestibolo e aprire un uscio quando fu serrato a chiavistello e porvi una sedia contro?» disse la donna. «Possono venire di filato al vostro letto e porvi la loro mano sopra? Così?» Gli occhi sfavillanti della donna mentre parlava rimanevano fissi sopra Legree, che rabbrividì come oppresso da un incubo e la guardò senza batter ciglio. Ma quando Cassie posò la sua gelida mano su quella di lui, egli la ritrasse con un'imprecazione. «Donna, che vuoi dire? Nessuno fece questo!» «Oh no, certamente! Ho forse detto che l'hanno fatto?» rispose Cassie con un sogghigno di gelida derisione. Ma tu vedesti veramente? Orsù, che è stato? Parla una volta! Potete coricarvi in quella camera se vi piace di saper meglio le cose. Cioè? Veniva dalla soffitta, Cassie? Che cosa? Quello di cui ora parlavi, su! Io di nulla ho parlato, disse la donna con piglio sdegnoso. Legree prese a camminare per la sala, inquieto. Esaminerò io la cosa. Voglio questa notte stessa vederci dentro. Prenderò me con le pistole. Benissimo, disse lei. Andate a letto in quella camera, vorrei proprio vedervi colà. E state pronto con le vostre pistole. Benissimo. Legree pestava e bestemmiava orribilmente. Non bestemmiate, disse Cassie. Nessuno sa chi può ascoltarvi. Udite? Udite? Che è? Che è mai? Disse Legree riscotendosi. Un vecchio pesante orologio olandese a pendolo che era collocato in un canto, in un canto della sala cominciò a suonare lentamente la mezzanotte. Legree restò muto e immobile, un vago terrore lo invase, mentre Cassie, coi beffardi occhi fissi su di lui, contava i colpi. Mezzanotte! Bene, vedremo ora, disse lei voltandosi e aperto l'uscio di passaggio si pose in ascolto. Oh, che è questo? Sentite! Esclamò col dito in alto. È il vento, rispose Legree. Non odi come sbuffa maledettamente. Simone, venite qua, mormorò Cassie a bassa voce, prendendolo per mano e conducendolo ai piedi della scala. Sapete che cos'è questo? Ascoltate. Un grido selvaggio risuonò nella casa, veniva dalla soffitta. Le ginocchia di Legree furono prese da tremore, il suo volto impallidì. Non fareste meglio a prendere le pistole? Disse Cassie con una sghignazzata che fece gelare il sangue a Legree. È tempo che vediate di che si tratta, capite bene? Oh, mi piacerebbe ora che voi saliste su. Ecco, adesso è il vero momento. Non vi andrò, disse Legree e aggiunse una bestemmia. Perché? Non crederete mica che vi siano spiriti, già si intende, riprese Cassie. Avanti, dunque. E si slanciò su per la scala, ridendo e guardando dietro di sé. Venite! Credo che tu sia proprio il diavolo, disse Legree. Torna indietro, brutta strega! Non voglio che tu vada su! Ma Cassie, con un riso beffardo, guizzò via. Le intese aprire gli usci che conducevano alla soffitta, un impetuoso buffo di vento ne scese. La candela che egli teneva in mano si spense. E nel tempo stesso grida terribili e spaventose si udirono nell'aria. Gli pareva che si urtassero proprio nelle sue orecchie. Legree tornò fuggendo come un pazzo nella sala dove dopo alcuni istanti Cassie lo raggiunse, pallida, ma calma in volto, come uno spirito vendicatore, con gli occhi sempre lampeggianti di sinistra luce. «Spero che siate contento ora», disse lei. «Il diavolo ti porti!» «E perché?» Io sono andata su unicamente per chiudere gli usci, ma che cosa credete che succeda in soffitta, Simone? Nulla di cui tu debba impacciarti. Davvero? Riprese Cassie. Ad ogni modo io sono ben contenta di non dormire più lì sotto. Prevedendo che il vento si sarebbe levato quella notte, Cassie era salita ad aprire la finestra della soffitta. Naturalmente, aperti gli usci, una forte corrente d'aria si era precipitata giù e aveva spento il lume. Questo fatto può dare un esempio del gioco che l'astuta schiava giocava contro Legree, il quale avrebbe oramai piuttosto cacciato la testa nelle fauci di un leone che esplorato quella soffitta là. Intanto, durante la notte, mentre tutti dormivano, ella vi andava accumulando a poco una provvisione di viveri sufficienti a sostentare sé e la sua compagna per un certo tempo. Così pure vi portò, un pezzo alla volta, la maggior parte degli oggetti di vestiario di Emmelina e i suoi. Preparato ogni cosa, esse non aspettavano più che un'occasione favorevole. Prendendo con le buone Legree e profittando degli intervalli di lieto umore, Cassie aveva ottenuto di accompagnarlo alla vicina città che era situata sul fiume Rosso. Con uno sforzo di memoria non comune, ella notò ciascuna svolta della via e calcolò fra sé il tempo che occorreva per farne il tragitto. E ora, tutto essendo maturato per l'azione, piacerà forse al lettore dare un'occhiata retrospettiva e vedere il finale coup d'état. Si avvicinava la notte. Legree si era recato ad una prossima fattoria. Da vari giorni Cassie sembrava di un umore insolitamente gioviale e arrendevole, ed ella e Legree erano stati, in apparenza, nei migliori termini. Ora, noi la troviamo nella stanza di Emelina, intenta fare con essa due piccoli fardelli. Così basterà, diceva Cassie. Ora mettetevi la berretta e partiamo. L'istante è buono e sicuro. Ma qualcuno può ancora vederci, disse Melina. È appunto quello che desidero, rispose Cassie freddamente. Non sapete che ci inseguiranno ad ogni modo? Ecco ora come andrà la faccenda. Noi usciamo dalla porta di dietro e corriamo dal lato dei quartieri. Sambo e Kimbo certamente ci vedranno e verranno subito a inseguirci, allora noi ci addentriamo nella palude. Quivi non possono darci la caccia senza gridare allerta e sguinzagliare i cani. Mentre essi correranno qua e là e si getteranno gli uni sugli altri come fanno sempre, camminando nell'acqua noi ci condurremo fino all'estremità della riva e ci troveremo dirimpetto alla porta posteriore della casa. È questo un ottimo mezzo per deludere i loro cani, poiché nell'acqua la traccia si perde. Tutti usciranno dall'abitazione per inseguirci e allora noi ci introdurremo per la porta di dietro nella soffitta, dove ho preparato un buon letto in una delle grandi casse. Converrà che ci stiamo a lungo, essendo cosa certa che l'Egrè smuoverà cielo e terra per ritrovarci. Egli radunerà parecchi ispettori delle altre piantagioni ed essi disporranno una gran caccia, investigheranno minutamente le paludi. Egli si vanta che nessuno schiavo gli poté mai sfuggire, e noi lo lasceremo dar la caccia finché voglia. Oh, Cassie, come avete ben immaginato ogni cosa, disse Melina. Chi mai avrebbe fuori di voi saputo inventare un sì scaltro disegno? Non v'era né gioia né soddisfazione negli occhi di Cassie, ma solamente una disperata fermezza. Venite, disse lei tendendo la mano a Emelina. Le due fuggitive uscirono senza strepito alcuno dalla casa e passarono lestamente attraverso le ombre della notte dal lato dei quartieri. La luna crescente, simile a un secchio argenteo nel cielo occidentale, protraeva l'ora del crepuscolo unendo a questo il suo debole chiarore. Come Cassie prevedeva, appena esse furono giunte in prossimità delle paludi che circondavano la piantagione, udirono una voce che intimava loro di fermarsi. Non era Sambo, però, ma l'Egrè stesso che le inseguiva con violente imprecazioni. Nell'udire quella voce, il debole cuore di Emmelina fu per venir meno e afferrato il braccio di Cassie e le esclamò: Oh, Cassie, mi sento svenire! Se svieni, ti uccido! Rispose Cassie, traendo dal seno un pugnaletto che mise sotto gli occhi della giovinetta. Questa diversione produsse un buon effetto e Melina non svenne e poté addentrarsi con Cassie in una parte di quel labirinto di virgulti così folto che l'Egrè invano avrebbe sperato di seguirvele senza aiuto. Bene, disse egli con un ghigno brutale, si sono poste da sé nella trappola le sfacciate, eccole al sicuro, ma avranno a pentirsene. Ehi, Sambo, Kimbo! Gridò altamente Legree, avvicinandosi ai quartieri nell'istante in cui gli uomini e le donne erano tornati di fresco dal lavoro. Due fuggitive nelle paludi. Io darò $5 a chi le prende. Sguinzagliate i cani, lanciate tigre, furie e tutti gli altri. Padrone, tireremo su loro se non possiamo agguantarle, disse Sambo, cui Legree aveva consegnato una carabina. Potete tirare su Cassie. È tempo che se ne vada il diavolo a cui appartiene, ma non sulla giovane. E ora attenti. $5 per chi le ricondurrà e un bicchiere d'acquavite per ciascuno di voi, checché avvenga. L'intera torma, alla luce delle fiaccole, allo strepito delle acclamazioni, degli urli, delle grida selvagge di uomini e di bestie, s'avviò alle paludi, con dietro a sé tutti i servitori della casa, la quale era restata del tutto deserta quando Cassie ed Emelina vi si introdussero per la porta segreta. Le grida e gli urli di coloro che le inseguivano facevano rimbombare l'aria e, guardando dalle finestre della gran sala, Cassie ed Emelina poterono vederli mentre con le loro fiaccole correvano all'impazzata sui limiti della palude. «Guardate!» disse Emelina additandoli. «La caccia è incominciata! Oh, come quei lumi ballano per tutti i versi! Udite come latrano i cani! Che tumulto! Oh, se noi fossimo colà, io non darei un centesimo della nostra vita!» Oh, nascondiamoci presto. Non c'è ragione di affrettarci, disse tranquillamente Cassie. Tutti sono alla caccia. Questo è il divertimento della sera. Fra un istante monteremo di sopra, ma ora. Soggiunse prendendo con risolutezza una chiave dalla tasca del pastrano che Legree nella sua fretta aveva gettato là. Ora prenderemo qualche cosa per fare le spese del nostro viaggio. Ella aperse lo scrigno e ne trasse un piego di biglietti di banca che rapidamente contò. Oh, non facciamo questo! Esclamò Emelina. Perché? Rispose Cassie. Volete che crepiamo di stento nelle paludi? O che ci procuriamo quanto occorre per giungere in uno degli stati liberi? Il denaro è tutto, ragazza mia! E così dicendo, si pose quei biglietti di banca in seno. Ma questo è rubare! Disse Emelina a bassa voce e con aria desolata. Rubare, ripeté Cassie con un ghigno sprezzante. Coloro che rubano corpo e anima non hanno da rimproverarci cosa alcuna. Questi biglietti sono rubati a povere creature fameliche, sfinite, che da ultimo se ne andranno per vantaggio di lui all'inferno. Venga egli, se osa, a dirmi che li abbiamo rubato. Ma via, sarà bene che montiamo nella soffitta. Quando vi furono, Emelina vide che una delle enormi casse di cui già parlammo era stata rivoltata da una parte, in modo che l'apertura guardava la parete. Ch'essi accese una lanternuccia e, andando carponi, entrarono ambedue nella cassa. Ivi trovarono due piccole materasse con guanciali e coperte, una scatola piena di candele, varie provisioni e tutte le vesti necessarie per il loro viaggio, che Cassie aveva accomodate in pacchi di una mirabile piccolezza. Orbene, disse ella, appendendo la sua lanterna a un piccolo chiodo che aveva piantato nel fianco della cassa. Ecco la nostra casuccia per ora. Vi piace? Siete sicura che non verranno a frugare in soffitta? Oh, vorrei un po' vedere Simone Legremontar qui, fece Cassie. No, certo, egli sarà lieto di tenersi al largo, in quanto i servi preferirebbero essere fucilati piuttosto che venire a ficcare il naso quassù. E Melina, un po' rassicurata, si abbandonò sopra il guanciale. Che volevate dire, Cassie, quando avete minacciato di uccidermi? Chiese ella ingenuamente. Volevo impedirvi di cadere svenuta e mi è riuscito. Ora, Emelina, bisogna prendere la risoluzione di non svenire, checché succeda. È una cosa di cui non c'è punto bisogno. Se io non vi avessi trattenuta, noi saremmo di nuovo nelle mani di quello sciagurato. Emelina sentì un brivido di terrore. Ambedue rimasero un po' in silenzio. Cassie prese a leggere un libro francese e Emelina, vinta dalla stanchezza, cadde nel sonno e dormì per alcuni istanti. Fu poi ridestata da clamori e da grida, dallo strepito dei cavalli e dall'abbaiare dei cani, tremò tutta e si sollevò mettendo un grido soffocato. «È la caccia che torna», disse Cassie freddamente. «Nulla abbiamo da temere, guardate da quest'abbaino. Non li vedete tutti laggiù? Simone vi ha rinunziato per questa notte. Il suo cavallo si è tutto infangato nella palude e anche i cani tengono le orecchie basse». Ah, mio bel signore, è questa una partita che bisognerà ricominciare più volte. Oh, non parlate, pregò Emmelina, che sarebbe mai se vi udissero? Se odono qualche cosa, perderanno sempre più la voglia di avvicinarsi qua, riprese Cassie. Non abbiate timore. Noi possiamo fare quanto rumore ci aggrada e ciò anzi produrrà migliore effetto. La mezzanotte portò finalmente il silenzio nella casa e Legree, maledicendo la sua cattiva sorte, risoluto di fare il giorno dopo una crudele vendetta, si coricò.